Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Undici minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Dopo il dato bruttissimo di ieri sulla produzione industriale che abbiamo commentato e che fa il paio con quelli altrettanto brutti, anche peggiore, quello tedesco e francese, il governo si sta interrogando su cosa fare, diciamo, al di là del coronavirus. Perché lo dico? Perché il dato relativo alla produzione industriale di dicembre e dell'intero 2019 chiaramente non rifletteva ancora quello che potrebbe capitare con il coronavirus, ma era già un dato brutto che rifletteva l'impatto della guerra tra i dazi, tra Cina e Stati Uniti, il rallentamento del commercio mondiale e soprattutto la frenata del settore automobilistico tedesco. Ora ci si chiede, al di là dell'emergenza coronavirus, dei 300 milioni che oggi il ministro agli esteri Di Maio, intervistato su Sole 24 Ore, ha annunciato che saranno messi a disposizione attraverso l'agenzia ICE, l'Istituto per il Commercio con l'Estero, per andare a finanziare il sostegno al Made in Italy, perché la componente export che rischia di essere più penalizzata dal coronavirus. Però qui non stiamo parlando del coronavirus, stiamo parlando di un rallentamento che era già in atto ed è già stato conclamato. Lo dico perché vedo che il governo e tutta la maggioranza che regge il governo è tutta impegnata sulla prescrizione, per carità, tema molto importante, quello che si vuole, ma insomma, se è possibile invitare il governo a trovare un accordo e andare oltre la prescrizione, cioè risolvere il problema della prescrizione e concentrarsi sulle politiche economiche, perché febbraio è, mi sembra, già iniziato e non c'è tantissimo margine, anche perché le notizie che ci arrivano sull'eventuale vaccino, come già detto in altre occasioni, parlano di un tempo intorno ai 18 mesi, 12 mesi se si dovessero correre. Non sappiamo ancora quanto l'epidemia verrà contenuta dalla Cina, e quindi in questo momento sarebbe importante operare subito le misure di contrasto a un rallentamento che era già in corso prima del coronavirus. Una misura più forte che noi continuiamo a proporre è quella degli investimenti, quindi se il governo riuscisse anche ad operare un piano di emergenza sugli investimenti da cantierare subito o già in parte cantierati, e su questo si iniziasse a trattare anche con l'Europa, forse si perderebbe meno tempo. Lo dico perché i dati che arrivano sono allarmanti, e lo dico anche perché ne parleremo in apertura. Oggi invece praticamente la maggior parte delle azioni di categoria, delle associazioni di categoria, scusatemi, e mi riferisco all'Associazione Bancaria Italiana, all'ANCE che riunisce i costruttori, a Sonime che le società quotate, Confindustria, anche Rete Imprese per l'Italia che riunisce Casa Artigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, hanno chiesto al governo di sopprimere le nuove regole in materia di ritenute negli appalti o di procrastinarne l'entrata in vigore, applicandone appunto spostando l'entrata in vigore il 1 luglio 2020 e applicandole solo ai contratti stipulati dal 1 gennaio 2020. Ora la cosa sembra tecnica, il problema è che qui invece che avere un piano, si può usare la parola d'emergenza, di contrasto al rallentamento in atto con appalti in infrastrutture che non sono solo l'alta velocità, anche l'alta velocità, ma sono anche gli ospedali, le scuole, gli asili, qui invece sembra che si vada con passo di gambero, cioè sostanzialmente si vada indietro e si rischi di bloccare già gli appalti esistenti in un paese in cui per aprire un cantiere servono 7 anni e 36 tappe, dati dell'ANAS. Lo stallo sta interessando oltre 600 opere per un totale di 36 miliardi. Ne parleremo in apertura, dicevo. E poi sentiremo invece anche altri settori, le preoccupazioni di altri settori sul coronavirus. Domani ci dovrebbe essere una conferenza stampa per il Salone del Mobile. È molto probabile, ahimè, che dopo la moda, ma il Salone del Mobile ha dimensioni ben più grandi della settimana della moda, anche il Salone del Mobile verrà in qualche modo danneggiato, sia per l'assenza di buyers e visitatori asiatici, in primo luogo cinesi, sia anche perché non è un gran periodo per spostarsi. Il timore è che complessivamente poi tutti siano tentati a minor movimenti, soprattutto in eventi fieristici dove si raccolgono numerosissime persone. Chi atterra a Fiumicino lo sa, è successo da sottoscritto la settimana scorsa e anche questa settimana, che anche sui voli nazionali si viene controllati sulla temperatura. Quindi la situazione è molto delicata, ed ecco perché non è colpa del governo, di questo governo e di quello precedente, rallentamento in corso a livello europeo e mondiale, ma il governo e anche l'Europa possono fare qualcosa. Di questo parleremo in apertura, poi parleremo nella seconda ora del programma del dato demografico. Ora non c'è, ahimè, una grossa novità. Ogni anno viene riaggiornato in negativo il dato su quante persone sono nate in Italia e quante sono morte, nel senso che l'anno scorso si sono avute 435.000 nascite, è il livello più basso da sempre. Nel confronto il numero dei decessi è stato di 647.000, e è un dato di una differenza di 210.000 decessi in più rispetto alle nascite, che ci portiamo dietro da tempo. Il Presidente della Repubblica, giustamente, Mattarella, ha detto che il problema della natalità riguarda l'esistenza stessa del paese, occorre fare di tutto per contrastare la denatalità. Il ricambio naturale è il più basso degli ultimi 102 anni. Il numero di figli per donna è di 1,29, mentre di 32 anni l'età media al parto. Anche qui differenze regionali, come sempre l'Alto Adige e il Trentino Alto Adige spicca in positivo, con un tasso di natalità superiore al 2, vicino a quello francese, che è il caso più virtuoso in Europa. Anche le differenze non sono solo tra Trentino Alto Adige e il resto del paese. La crescita demografica è sostanzialmente tutta concentrata al nord, mentre si conferma il calo della popolazione nel mezzogiorno, perché le variazioni sono pari a un più, al di là di Bolzano e Trento, l'incremento della popolazione è del più 3,4 per mille in Lombardia ed Emilia Romagna più 2,8 per mille, negativa la Toscana, che però è quella che perde meno 0,5 per mille, e invece si va sui livelli di meno 5,3 per mille per la Sardegna e meno praticamente 10 per mille nella maggior parte delle regioni del sud, tra cui Molise e Basilicata. Perché questo? Per un insieme di motivi. Da un lato il tasso demografico è influenzato anche dalla presenza di lavoratori extracomunitari, che sono più presenti laddove ci sono più imprese, nel centro-nord. Dall'altro è anche vero che sappiamo che si è invertita la tendenza, le difficoltà occupazionali nel sud, il fatto che molti giovani dal sud emigrino verso il nord o all'estero, probabilmente non invoglia nemmeno le famiglie ad aumentare il numero di figli, e sappiamo che poi c'è un tasso abbastanza strutturato tra tenore di vita, inteso non solo come potere d'acquisto ma anche come welfare, l'Alto Adige lo dimostra, il Trentino Alto Adige lo dimostrano, e quindi come tutto un insieme di servizi che tu hai in un territorio, il tasso di natalità, e sappiamo che ahimè il sud quanto a servizi sul territorio non brilla, né per reddito pro capite brilla. Di questo parleremo anche qui. È molto difficile per me affrontare il tema senza cadere nella retorica, perché ogni anno esce il dato dell'Istat, ogni anno noi commentiamo un'Italia che invecchia, dove il tasso di ricambio è sempre più basso, e ogni anno, qualunque sia il governo, giallo-verde, governo precedente, governo giallo-rosso, politiche attive per la famiglia non se ne vedono. Abbiamo visto politiche per quota 100, che secondo me è un lusso che non ci possiamo permettere, e continuo a pensarla in questo modo. Abbiamo visto, per carità, politiche di welfare importanti, quello sì, come reddito di cittadinanza, politiche invece sbagliate a mio avviso sulla creazione di posti di lavoro artificialmente con il reddito di cittadinanza e i navigator. Però insomma il quoziente familiare non se ne parla più. Le politiche fatte in questi anni per la famiglia hanno avuto un unico grosso problema: erano tutte di breve respiro, e nessuno fa i figli per un bonus bebè che ti viene dato un anno e poi magari arriva il governo successivo te lo cambia, oppure non viene rifinanziato. I figli tendono, per fortuna, a non diciamo, la paternità e la maternità tende a non esaurirsi in un anno e a non seguire i cicli elettorali né i cicli, diciamo, della politica. Infine, altro tema, giornatina leggera oggi, Air Italy. L'azienda è sostanzialmente non è riuscita a trovare un accordo tra i soci. Qatar Airways era disponibile a ricapitalizzare, però bisogna stare attenti che l'Europa non permette a vettori extraeuropei di arrivare alla maggioranza in un vettore che opera in Europa. Il risultato è che i voli adesso verranno garantiti, cercheremo di capire anche in che termini. Molto seccata il ministro De Micheli, che ha detto, insomma, ci aspettavamo di essere avvisati sostanzialmente da Air Italy. Fino al 25 febbraio saranno garantiti, poi riprotetti, come si dice in gergo, quindi spostati su altri vettori o rimborsati. Air Italy però ha anche un altro tema, perché siccome ha preso il posto della vecchia Meridiana, c'è tutto il tema di garantire la continuità territoriale con la Sardegna. E il ministro De Micheli ha chiesto alla società di sospendere ogni decisione in attesa dell'incontro di domani mattina, dove è convocata anche al Ministero dello Sviluppo Economico anche la regione Sardegna stessa, appunto perché c'è il tema della continuità territoriale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Andiamo con le altre notizie in breve. Partiamo dalla borsa, dove per quello che riguarda Milano il rialzo dello 0,86% è dell'1,20% a Francoforte e dello 0,70% a Parigi. Londra più 0,90%, Dow Jones più 0,17%. In realtà Wall Street è mossa soprattutto da due titoli delle telecomunicazioni, Sprint da un lato e T-Mobile dall'altro. Perché? Perché è arrivato via libera la fusione tra i due soggetti e c'erano stati alcuni stati americani che avevano presentato ricorso contro l'operazione, che vale 26 miliardi di dollari e dovrebbe dare uno slancio alla competizione nel settore delle reti mobili, soprattutto con la nuova generazione 5G, lanciando una sfida al nuovo colosso che è formato appunto da T-Mobile e Sprint ai giganti come AT&T e Verizon. E appunto i titoli crescevano del 75% Sprint e dell'11% T-Mobile. Adesso non voglio fare l'aggiornamento, già lo fanno i nostri GR24 tutti i giorni sul coronavirus. Avete sentito che adesso ha un nome, lo ha annunciato il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si chiama Covid-19, non è che la cosa ci cambi molto la vita, però l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che è una minaccia molto grave per il mondo. Il numero uno della Federal Reserve, la banca centrale americana, Jerome Powell, ha detto che vi sono rischi di impatto all'intera economia globale, non solo all'economia cinese. La Federal Reserve sta monitorando la situazione e poi ha fatto un appello invece al Congresso americano dicendo: attenzione, per sostenere la crescita degli Stati Uniti serve un bilancio sostenibile. Questo il giorno dopo che Trump ha annunciato per la manovra americana del 2021 una manovra da 4.800 miliardi di dollari fatta di tagli alla spesa sociale e sanitaria per finanziare soprattutto il settore difesa e un nuovo taglio delle tasse. Del coronavirus però parliamo, perché anche il Giappone sta allargando la chiusura degli aeroporti. Dall'inizio di questa settimana 13 aeroporti regionali cancelleranno tutti i voli diretti con la città di Shanghai e con altre località cinesi. Faccio notare che prima del coronavirus i viaggiatori cinesi rappresentavano il 30% di tutti i turisti stranieri in Giappone, 30%, e contribuivano al 35% di tutta la spesa turistica in Giappone. L'andamento degli spread, mi chiedete, il nostro è sostanzialmente stabile, 137 punti dopo essere sceso la settimana scorsa a 130-131 punti. Adesso arriveremo all'appello lanciato da varie associazioni di categoria. Faccio notare che al dato di ieri sulla brutta produzione industriale a dicembre e in complesso nel 2019, oggi si somma, ed è parallelo a quel dato, quanto nota la Banca d'Italia, cioè che a dicembre i prestiti alle imprese sono scesi dell'1,9% dopo che già erano scesi del 2% a novembre. Questo perché l'attività industriale che rallenta fa sì che vi siano minori richieste di prestiti delle imprese al mondo bancario, e anche questo è un segnale di un rallentamento di cui il governo deve prendere atto, non solo a parole a mio avviso. La riforma delle pensioni. Allora, i sindacati hanno detto che hanno chiesto che si discuta della riforma di quota 100, di quello che capiterà a quota 100 dopo una riforma delle pensioni. Allora, oggi è intervenuto sul tema anche il presidente dell'INPS Pasquale Tridico, a margine di una convenzione con il Policlinico Gemelli. Ha detto: febbraio, il primo mese di discussione, si andrà avanti qualche mese, ma il clima è molto collaborativo. Il tavolo si sta svolgendo all'interno di un clima molto collaborativo e molto costruttivo, quindi non ci sono contrapposizioni, ecco, diciamo così. Certamente i sindacati fanno le loro richieste, avanzano quelle che sono un po' le loro legittime aspettative. Dopodiché il governo farà una sintesi. Siamo solo all'inizio. Febbraio è il primo mese di discussione. Si andrà avanti, immagino, per qualche mese, insomma, non c'è ancora una sintesi finale da parte del governo. Si stanno ascoltando le parti su tutte le materie sulle quali il ministro Catalfo ha chiamato gli incontri, appunto, dalla pensione di garanzia alla pensione flessibile, dalla possibilità di rivedere l'IRPEF fino al fondo integrativo, comunque una forma complementare. Il primo ciclo di tavoli, se non sbaglio, si conclude il 19, quindi è il quinto tavolo, e dopodiché ci ritiriamo in camera di consiglio, come dire, si farà una sintesi. È interessante quello che Tridico, appunto presidente dell'INPS, ha detto anche sul reddito di cittadinanza. Dice: attenzione, qualsiasi strumento di politica attiva non è sufficiente da solo all'inserimento nel mondo del lavoro, occorre infatti che vi sia una domanda anche di lavoro. Adesso se ascoltiamo Tridico, poi un commento lo devo fare, perché vabbè, sentiamo Tridico. Qualsiasi strumento di politica attiva, nella seconda parte il reddito di cittadinanza lo è anche, non è sufficiente da solo, ma è un contributo verso l'inserimento nel mercato del lavoro insieme agli investimenti. Qualsiasi politica attiva non può funzionare se non ci sono domande di lavoro appropriate. Quindi se non ci sono posti vacanti, le politiche attive hanno poco senso. Oggi noi scontiamo sostanzialmente una scarsa domanda di lavoro e qualsiasi politica dal lato dell'offerta ha una difficoltà. A mio parere, tuttavia, la valutazione sul reddito di cittadinanza si deve fare sulla base di aver mobilizzato risorse che prima erano immobili. Adesso abbiamo 2,5 milioni di persone che ricevono il sostegno, e per costoro c'è stato un incremento netto della qualità della vita, per costoro c'è stata una riduzione della povertà. La valutazione va fatta sulle politiche attive, va fatta sicuramente su un periodo un po' più lungo. Come dire, noi abbiamo messo uno strumento in campo, questo strumento in campo dovrà dare risposte nel momento in cui il paese comincia a crescere. No, io però una cosa la devo dire al presidente dell'INPS Tridico: intanto che nel suo ragionamento continua a confondere lo strumento di welfare, che a mio avviso è cosa buona e giusta, cioè il reddito di cittadinanza, che è andato a prendere posto del reddito di inclusione, che era stato fatto tardi e con poca dotazione dal precedente governo Gentiloni. E fin lì va bene, perché ha ragione Tridico nel dire: hai messo più soldi a persone che vivevano, stante le dichiarazioni dei redditi, su una soglia di povertà relativa, e quindi hai migliorato la loro vita. Oltre che, però, poi anche lui parla delle politiche attive, cioè del creare lavoro, del trovare posti di lavoro, riconoscendo che se non c'è domanda di lavoro è difficile che lo si crei attraverso i navigator. Allora la domanda è: perché si è andati avanti con i navigator, che intanto sono lì e dovrebbero dare anche a giovani, perché ripeto, un conto è parlare di un pensionato o di uno che è alla fine della sua età lavorativa e ha perso il posto di lavoro, altra cosa è un giovane di 25 anni, abbiate pazienza. Perché si è fatto prima il navigator e non prima gli investimenti? Perché il lavoro non si crea con i navigator, il lavoro si crea con gli investimenti, anche al sud, anche creando fiscalità di vantaggio, cioè, e poi potevi iniziare a lavorare meglio sulle agenzie di collocamento, sulle agenzie per il lavoro, per carità, ma è che è stato invertito il nesso causale, si fanno prima i navigator e poi ci si accorge che se però senza una domanda di lavoro i navigator non sanno dove portare i curricula di sti ragazzi. Fantastico. Vabbè, ancora due notizie. Una invece lo scontro che è in corso tra i sindacati dei bancari, in primo luogo la Fabi e Unicredit, perché nonostante i conti e gli utili ha confermato 6.000 esuberi Unicredit dal 2019-2023, la chiusura di 450 filiali. Marco Mancini ha chiesto insomma che tipo di reazione potrebbe avere il sindacato e se si aspettavano un piano confermato così duro. Al numero uno della Fabi, Lando Maria Sileoni. Diciamo che ce lo aspettavamo, ma i numeri non saranno né 6.000 gli esuberi né 450 gli sportelli da chiudere, perché non avrebbe senso se no l'apertura di una trattativa che partirà il 14 di febbraio. Quindi sono numeri che la banca ha dichiarato e noi cercheremo di ridimensionarli e soprattutto cercheremo di attuare, anche perché altrimenti non firmeremo nessun tipo di accordo e quindi si aprirà un'altra fase di completa ingestibilità della banca. Cercheremo di arrivare ad un eventuale, sottolineo, eventuale accordo con una compensazione del 50% di nuove assunzioni, che dovranno essere nuove assunzioni. La stabilizzazione dei lavoratori precari è già prevista dal vecchio piano industriale, quindi oltre a quelle noi chiediamo il 50% di compensazione di nuove assunzioni, una nuova assunzione ogni due che se ne vanno volontariamente. Ultima notizia prima di andare sul meteo e poi affrontare il tema: da un lato dell'emergenza coronavirus e di quello, dei settori che sta colpendo, continua il nostro viaggio, dall'altro invece degli investimenti che non partono in questo paese al di là del coronavirus. No, la buona notizia riguarda Venezia, perché in attesa del MOSE c'è un progetto oggi presentato dal costo di 30 milioni di euro, commissionato dal Consorzio Venezia Nuova, che è quello che gestisce anche il progetto MOSE, per tenere asciutto San Marco, la piazza di San Marco, almeno fino a marea da 110 centimetri. Superata questo livello dovrebbero alzarsi invece le barriere, le bocche di porto, cioè il MOSE, e prevede il progetto di innalzare il bordo del sormonto delle onde sul molo di San Marco. Ci sarà sia un sistema di pompe per scaricare le acque piovane e le acque del sottosuolo, sia di mini paratie rimovibili poste nell'angolo più esposto della piazza, dove praticamente l'acqua entra delle volte come un fiume. E speriamo che si faccia presto. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo sul meteo e poi diciamo l'economia italiana stretta tra il calo brusco della produzione industriale e i rischi del coronavirus, mentre ripeto allo sfinimento l'unica misura, l'unico antidoto, visto che si parla molto di antidoti e di vaccini in questo momento, sarebbe far sbloccare gli investimenti e avere un piano aggressivo di investimenti pubblici che porti dietro anche gli investimenti privati. Ne parliamo dopo il meteo. Focus Economia. Di nuovo in diretta, 17:40 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, dicevo, un'economia del paese che è stretta tra i rischi forti che stanno arrivando dal coronavirus e un rallentamento che era già in atto nel 2019, che il dato di ieri sulla produzione industriale molto brutto a dicembre e in tutto l'anno ha certificato, e che non è dovuto a colpe italiane, è dovuto alla frenata della Germania, in primo luogo, il nostro primo partner commerciale, soprattutto nell'industria e nei manufatti, al rallentamento del commercio mondiale per via della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti, però a cui il nostro paese non sta rispondendo con chiamiamoli antidoti. Io ne conosco uno solo, sì, per carità, la riduzione della pressione fiscale in busta paga, con il problema, come sempre diciamo, che se però la famiglia o il singolo individuo non ha fiducia nel futuro, quei soldi li tiene, li mette sotto materasso, li lascia sul conto corrente, non li va a spendere. L'altro invece è lo strumento classico degli investimenti pubblici, che sono ancora ai livelli molto bassi rispetto al 2008, sotto il livello del 2008, al 2% del PIL, bassi solo come in Germania, che infatti è un altro paese che ha frenato bruscamente, e che hanno il vantaggio di solito di trascinare con sé anche gli investimenti privati. Perché ne parliamo? Perché mentre, diciamo, il governo, adesso ascolteremo, ha in mente 300 milioni di euro di aiuto all'export, come ha dichiarato oggi il ministro Di Maio nell'intervista al Sole 24 Ore, c'è stata un'iniziativa di tutte le associazioni datoriali, cioè ABI, ANCE, Assonime, Confindustria, Rete Imprese Italia, cioè Casa Artigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, perché chiedono la soppressione delle nuove regole in materia di ritenute negli appalti, altrimenti si blocca l'attività in interi settori. Ci manca solo questa. Allora, Gabriele Buia, presidente dell'ANCE, buonasera. Buonasera a voi. Le chiederò dopo di non essere troppo tecnico, ma di far capire insomma perché, e soprattutto di farci capire perché gli investimenti non stanno ripartendo, non si stanno sbloccando. Voi avete quantificato in 600 le opere in stallo, per un totale di 36 miliardi di euro. Prima di tutto però vorrei ascoltare con lei intanto che cosa ha detto oggi il ministro Di Maio, ribadendo quanto anticipato su Sole 24 Ore, i 300 milioni che verranno messi alla disposizione dell'ICE, dell'Agenzia per il Commercio con l'Estero, per finanziare il sostegno al Made in Italy. Questo è un momento dal punto di vista internazionale delicato. Sicuramente impatterà sul commercio mondiale il coronavirus. Questo fenomeno, questa epidemia impatterà sugli scambi commerciali. L'Italia negli ultimi anni aveva investito, non solo gli ultimi governi ma anche quelli precedenti avevano investito negli scambi verso est. È chiaro ed evidente che adesso si apre una fase in cui noi come governo dobbiamo dare il massimo sostegno alle imprese per affrontare questo momento di difficoltà. L'ICE ha disponibilità, l'Agenzia per il Commercio Estero ha a disposizione solo nel 2020 300 milioni di euro, le metterà a disposizione per le imprese che esportano, per poter riorientare alcuni traffici commerciali, alcuni obiettivi di export, verso mercati che non saranno colpiti dai danni del coronavirus. Questo è il momento dei mercati maturi, è il momento in cui possiamo aumentare il nostro interscambio con quei mercati con cui abbiamo già una forte confidenza. Ci saranno 300 milioni di euro che aiuteranno le imprese a esportare il Made in Italy in tutto il mondo in questo momento di enorme difficoltà. Così il ministro Di Maio, mentre per quello che riguarda il viaggio nei vari settori, oggi lo stiamo facendo da intere puntate: moda, legno arredo, automotive e chi più ne ha più ne metta. È molto preoccupato il presidente di Federmacchine, Giuseppe Lesce, che ha detto insomma l'anno ormai rischia di essere fortemente compromesso, come ha detto appunto la nostra Livia Zancaneri. Ci sono degli impianti che sono stati fisicamente spediti, ma che in realtà in questo momento non sappiamo neppure come fare ad avviare. Questo rallenterà non solo questa attività, ma avrà un impatto anche sulle attività a seguire. Noi abbiamo delle divisioni, per esempio quella che si occupa di packaging, dove la Cina è il primo mercato in assoluto ed è il primo mercato da 20 anni. Noi in questi giorni abbiamo tenuto a casa tutto il personale, sono in contatto con una nostra azienda associata che opera nel settore del tessile, qui della Lombardia, qui vicino. Loro hanno dovuto far rientrare tutti i tecnici che stavano facendo avviamenti. Poi c'è anche il problema di che cosa fare con questi tecnici, perché sono ritornati indietro, ormai sono circa 10 giorni e sono tutti quanti a casa propria, per cui anche i costi relativi sono sulle spalle delle aziende. Sostenere le aziende in questa situazione non sarebbe male, ecco, dal punto di vista del governo. Secondo lei quali dovrebbero essere le iniziative contenute in questo decreto? Le aziende hanno dei problemi concreti e altri ne salteranno fuori. Bisognerebbe da questo punto di vista qui effettivamente che il governo prendesse dei provvedimenti, credo che dialogasse almeno concretamente, quotidianamente con Confindustria per avere una visione il più possibile esaustiva delle casistiche. Oggi nessuno sa quanto durerà questa situazione, quanto durerà questa crisi, ma temo che l'anno sia fortemente compromesso. È molto preoccupato anche Matteo Lunelli in quanto presidente di Alta Gamma, quindi che unisce alcuni dei marchi più importanti nei vari settori del Made in Italy, agroalimentare, abbigliamento, arredo. Matteo Lunelli, che è anche presidente delle cantine Ferrari, questa mattina era ospite di Simone Spezia e Maria Latella. L'impatto economico di questa epidemia sarà sicuramente molto significativa. I primi dati che stanno uscendo parlano di un circa un 15% di impatto sul fatturato nel primo quarto delle aziende della moda in particolare. In Cina c'è stato invece un calo drastico delle vendite con la chiusura di negozi e soprattutto anche nelle città della moda e nei negozi del lusso di tutto il mondo ovviamente si vedono mancare questi consumatori cinesi. Parlando questo del settore del lusso in generale, ecco, per fortuna pensando al settore vinicolo, la debolezza dell'Italia, che non è mai stata forte sul mercato cinese, in questo caso ci salva un po', perché il settore ad esempio del vino italiano in Cina è abbastanza debole, cioè noi siamo molto meno presenti in Cina rispetto ai nostri cugini d'Oltralpe. L'Italia conta circa il 5% contro una Francia che supera il 40%. Tra l'altro il nostro settore del design stava crescendo molto bene, il salone del mobile è andato in Cina e l'ultima edizione è stato un successo enorme, quindi sicuramente anche il settore dell'arredo avrà un impatto. Allora, uno dice che cosa c'entra a questo punto il settore costruzioni? Perché vorremmo riequilibrare il rallentamento molto probabile, ormai certo, dell'export. Buia, poi me lo spiega meglio dopo il traffico, ma una lettera congiunta di tutte le associazioni per chiedere che cosa? Veramente per sottolineare ancora una volta che lo Stato non fa altro che addossare alle imprese responsabilità sui controlli, venendo meno ai propri compiti istituzionali, quello di far lui questo servizio. Alla luce delle varie situazioni, lo Stato non può continuare a mettere a carico delle imprese oneri che sono dello Stato. Questo dobbiamo asserirlo e quel comunicato stampa firmato da tutte le associazioni lo sottolinea. Siamo stanchi di vedere queste situazioni alla luce poi di queste ulteriori problematiche dell'economia. Allora, poi dopo il traffico mi spiega perché un tema apparentemente così tecnico come le nuove regole in materia di ritenute negli appalti rischia di bloccare ulteriormente gli investimenti in infrastrutture e complessivamente, me lo chiedono molti ascoltatori, se c'è un motivo per cui sappiamo che il codice degli appalti ha creato anche molti casini, ma un motivo per cui non si riesce a trovare una corsia emergenziale per sbloccare alcuni appalti dopo il traffico. Focus Economia. Dunque, presidente Buia, spiegandolo a tutti, perché le nuove regole in materia di ritenuta degli appalti rischiano di bloccare ulteriormente gli appalti in interi settori e complessivamente cosa servirebbe per avere almeno una corsia preferenziale, una corsia d'emergenza per aumentare gli investimenti pubblici? Allora, abbiamo sempre detto che le problematiche legate agli investimenti pubblici sono quelle che bloccano la spesa, l'utilizzo delle risorse, per cui la semplificazione per arrivare a utilizzare ed investire i soldi. Abbiamo già più volte detto le problematiche di ANAS di utilizzare queste risorse e non ultima anche oltre il pubblico c'è il mercato privato che in questo momento è sicuramente una valenza per la crescita, perché non dimentichiamoci, fatti 100 gli investimenti nel mondo delle costruzioni, l'80%, 75% deriva dagli investimenti privati e questo non è di secondaria importanza. Questi ulteriori adempimenti che lo Stato mette a carico degli appalti in generale sono adempimenti che dicono praticamente alle imprese e ai committenti che sono loro i controllori e i responsabili se un'azienda appaltatrice o subappaltatrice non versa le ritenute fiscali. Questo vuol dire che per le manifatture, per esempio, deve dotarsi di una struttura di controllo che vada a verificare se tutta la filiera, nella fattispecie di un ampliamento del suo stabilimento produttivo, se tutta la filiera produttiva ottempera alle indicazioni fiscali. E questo non è possibile, perché è un ruolo che spetta di controllore allo Stato, e non possiamo dire che alle imprese di dotarsi ulteriormente di risorse per far fronte a queste, che non sono sicuramente situazioni che aumentano la produttività. E non possiamo fare seriamente noi gli esattori. Questo dobbiamo dire e dobbiamo con forza. Lo Stato mai ha questa abitudine di dare a terzi incombenze che sono proprie. E questo vogliamo sottolineare, questo intervento congiunto verso il legislatore, per far capire che deve riprendersi il proprio ruolo, il legislatore e lo Stato, cioè fare i controlli e vedere esattamente dove sono le anomalie. Non possiamo pagare tutti per colpa di pochi. Questo è sempre stato, e a questo punto, alla luce dei mancati, bloccare anche i mercati privati, bloccare tutti solo gli investimenti e dire a un imprenditore che è responsabile delle sanzioni, vuol dire bloccare completamente gli investimenti, in questo caso privati, e che sono, ripeto, tanti tanti miliardi di euro. Questo ci sta preoccupando molto. E questo è il fronte, diciamo, degli adempimenti che dovrebbero essere lo Stato, che lo Stato chiede di fare a voi. Certo. Invece, per far capire a tutti, mi rendo conto che per lei il tema sia sfinente, ma perché non si riesce, nonostante le varie dichiarazioni, a far partire gli investimenti e gli appalti, soprattutto, che darebbero una boccata d'ossigeno in questo momento di rallentamento dell'export e di produzione industriale in calo? Il grande problema è, come accennavo poc'anzi, il fatto che la filiera lunghissima impiega tempi biblici per utilizzare le risorse, tra tempi per le autorizzazioni dei progetti che durano dai 5 ai 7 anni necessarie per avere tutte le autorizzazioni. Se non arriveremo, come Sistema Italia, a rendere perentori i tempi di queste autorizzazioni, continueremo a vedere progetti che impiegano questi anni, e di conseguenza le risorse non vengono utilizzate. È un paradosso che gli accordi di programma appaltati, all'interno dei quali non si riesce a vedere un lavoro che parte, perché i tempi di utilizzo sono lunghissimi, i progetti non ci sono, non sono pronti. E questo è il grande problema. Per fare un progetto, se impieghiamo 7 anni, voi capite bene che proprio non utilizzeremo mai le risorse pubbliche. Abbiamo avuto un incremento degli investimenti nelle amministrazioni territoriali, perché siamo riusciti a sbloccare quel marchingegno che era il problema dei bilanci e del patto di stabilità. Abbiamo dato l'infa e si è riacceso qualche cosa, ma le grandi committenze pubbliche sono ancora per lo più bloccate, queste grandi che danno grandi investimenti, l'intervento manutentivo, il grande piano di manutenzione che più volte abbiamo parlato su tutta la rete autostradale e non solo, anche stradale, il dissesto idrogeologico, il Ministero dell'Ambiente, 7 miliardi bloccati su queste tematiche. Se impieghiamo anni per avere autorizzazioni di tutti gli enti preposti, noi continueremo a soffrire e vedremo che il mondo delle costruzioni, che è il 20% del nostro PIL, non riuscirà a dare una mano a sostentamento, a oggi ancora più necessario alla luce delle problematiche di crisi che abbiamo con la nostra manifattura per l'export e per i rapporti con la Cina. Questo ci sta ulteriormente preoccupando, chiaramente, perché si bloccherà tutta la macchina, un indotto che per noi è strategico. Allora sì, devo dire che da questo punto di vista io spero vi possa essere, qualcuno mi dice bisogna fare una norma speciale, facciamo piuttosto una norma speciale, non so più come prendere questo tema, così come dopo non so nemmeno più come prendere il tema del calo demografico, ma che non c'entra con questo chiaramente, ma che affronteremo dopo. Grazie intanto a Gabriele Buia, presidente dell'ANCI, andiamo sul GR24. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Vedo molti messaggi sul tentativo di trovare degli interventi che vadano a ribilanciare il calo dell'export, i rischi coronavirus e il calo della produzione industriale. Adesso non posso continuare sul tema. Poi c'è chi ha una soluzione molto facile, dice che porta sfiga il programma, il conduttore, e quindi la recessione è dovuta a questo. Beh, fosse così facile, ragazzi, lo farei anche per il paese. Allora, la borsa, dicevamo, giornata positiva per quello che riguarda Milano, più 0,70%, come Parigi. Francoforte guadagna un punto percentuale, Londra anch'essa più 0,70%, Dow Jones invece invariato. In rialzo soprattutto i titoli energetici, il petrolio ha recuperato un po' di terreno, Saipem guadagna il 2,70%, Eni l'1,14%, poi alcuni bancari e non solo. Allora, UbiBank più 4,20%, e poi Amplifon più 2,80%, Prismian pure, ST Microelectronics più 2,5%, Juventus più 2,40%, Ferrari più 2,20%, Unipol più 2, Nexi più 1,90%. Cedono invece di nuovo il settore del lusso. Moncler ha sospeso progetti e investimenti per il 2020 a seguito degli effetti del coronavirus sulle vendite in Cina. Perde il 2,70%, anche Ferragamo, Salvatore Ferragamo meno 2,40%. L'altro titolo, FinecoBank, perde il 5,61%, il peggiore tra quelli a maggiore capitalizzazione, soprattutto per via dei conti. In linea con le attese, l'utile si è chiuso a 288 milioni, più 19%, cedola a 32 centesimi per azione. Migliori e peggiori in assoluto: Risanamento più 12,20%, Biancamano più 10,20%, Asco Leva più 10,20%. Fronte opposto, Fope meno 5,60%, e poi FinecoBank, abbiamo detto, meno 5,60%, Caledo Group meno 4,60%. Allora, come se ci fosse bisogno di un'altra crisi aziendale, cioè è arrivata un'altra crisi aziendale. Sono 1200 i posti di lavoro tra Olbia e Milano Malpensa per la Air Italy, che ha preso il posto anche, insomma, della Meridiana. Gli azionisti sono Alisarda, che ha il 51%, e Qatar Airways, che ha il 49%. Qatar Airways ha fatto sapere che avrebbe partecipato all'aumento di capitale, e quindi alla ricapitalizzazione, però l'altro socio non era d'accordo. Il problema è che per le leggi europee un vettore non europeo non può avere la maggioranza, e quindi il 51%, di un vettore che opera nel traffico nazionale o nel traffico europeo. Allora, che cosa capiterà? Fino al 25 febbraio i voli saranno operativi, poi o riprotetti, quindi ricollocati con altri operatori, o rimborsati. C'è un problema in più con Air Italy che riguarda la continuità territoriale, che deve garantire soprattutto nella tratta su Olbia la continuità territoriale della Sardegna, tant'è che al tavolo di domani è convocata anche la Regione Sardegna, il Ministero dello Sviluppo Economico, e il Ministro Di Micheli, oggi molto seccata con Air Italy, ha detto: non è accettabile la decisione di liquidare un'azienda di tali dimensioni senza informare prima il governo e senza valutare seriamente eventuali altre alternative. Ha chiesto un incontro urgente con Air Italy, invitando la società a sospendere ogni decisione. Nel frattempo, per motivi di sicurezza, è in atto a partire da oggi il fermo tecnico dei voli e si sta attuando un piano di riprotezione dei passeggeri, così il presidente di Air Italy, Roberto Spada. Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buonasera Gianni. Gianni? Buonasera Sebastiano, eccoci. Buonasera agli ascoltatori. Una volta tanto non è all'Italia, ma se non è zuppa è pan bagnato, nel senso che tu, insomma, buone notizie, non sei mai foriero. Perché Air Italy chiude i battenti e perché appunto Alisarda non ha voluto ricapitalizzare o partecipare alla ricapitalizzazione della società, come dice sostanzialmente Qatar Airways? Già, l'altro socio non ha parlato, l'altro socio è l'Aga Khan, che ha, certo, come hai ricordato, la maggioranza assoluta, poco più del 50%, ed è il socio europeo. Evidentemente, in questo silenzio si può ritenere che sia un silenzio a senso, cioè che l'Aga Khan, dopo anni di perdite cambiamenti di nome della compagnia, ma le perdite rimanevano, e cambiamenti anche di altri soci di minoranza, abbia deciso di chiudere i rubinetti. Qatar Airways da sola non può, perché non è un soggetto dell'Unione Europea, se no Air Italy perderebbe i diritti di volo. E quindi adesso la situazione, la compagnia si è fermata. Questo molto, diciamo, molto semplicemente, purtroppo è successo questo. Ma lì c'è stato un problema, diciamo, di costi o di ricavi? Scusami se insisto. I costi della compagnia nelle ristrutturazioni fatte in questi vari passaggi erano stati ridotti, forse non ridotti come voleva la direzione della società, ma diciamo erano stati abbassati, anche se non abbassati a un livello probabilmente delle migliori medie di mercato, anche senza adesso andare a prendere le vere low cost. Il problema è che la compagnia ha una dimensione anche di attività di volo troppo piccola. Era stato annunciato un piano di espansione di flotta fino a 50 aeroplani, gli aerei sono meno di un terzo, cioè non so adesso il numero in questo momento quale sia, ma meno, perché poi alcuni si sono fermati, meno di 20, quindi tutto questo, il modello poi non si è creato un modello, neanche quando è entrato Qatar Airways, non si è creato un modello funzionante, e mi sorprende che una compagnia che comunque ha delle capacità mondiali come Qatar Airways non abbia, visto che di fatto ha preso in mano la gestione, anche se formalmente non era il socio di controllo, ma ha scelto lei le persone che dovevano guidare la società, non abbia saputo imprimere una direzione migliore. Qui andava fatto un investimento anche di voli di lungo raggio, sembrava che avrebbero potuto beneficiare della crisi dell'Alitalia, che invece non può espandere la flotta, e invece gli investimenti non ci sono stati, le low cost, la concorrenza nel mercato del breve medio raggio hanno continuato a guadagnare quote di mercato anche a danno di Air Italy, e quindi la situazione è rimasta molto negativa. Quindi a un problema anche di ricavi. Anche di ricavi. A questo punto però c'è il tema anche della continuità territoriale, o sbaglio? C'è anche questo problema, perché Air Italy fa una parte dei voli tra la Sardegna e il resto del continente. C'era stato un piccolo pasticcio, diciamo un conflitto con Alitalia l'anno scorso su certe rotte, poi diciamo dopo hanno trovato un compromesso, ma questo tema che poi riaffiora periodicamente, quindi ci sarà anche questo problema. Vedo che qualcuno chiede ad Alitalia di intervenire, adesso certo non si può pensare che intervenga a rilevare questa attività, potrebbe essere che certe rotte vengano comunque, tra l'altro ci sono degli aiuti pubblici sulla continuità territoriale, può darsi che queste rotte, visto che forse l'Italia sta anche rivedendo il suo orario, se avrà degli aerei potrebbe in parte, ma aspettiamo che parli l'Italia, forse anche mandarli verso la Sardegna. Sì, staremo a vedere. Quindi a questo punto intanto si va a ricollocare i passeggeri o a rimborsare i passeggeri, certo che insomma non dico che stia iniziando la stagione estiva, però entro l'estate qualcosa andrà risolto, perché non dimentichiamo che Air Italy forniva soprattutto Olbia, giusto? Sì, soprattutto Olbia, mentre l'Italia è Cagliari. L'Italia è Cagliari. Si ha notizie di quello che capiterà ai oltre 1200 lavoratori, Gianni? L'hanno detto, la società ha detto che verranno pagati, ma verranno pagati per quello che è stato fino ad ora. Ci saranno nominati due liquidatori, due, numero pari stavolta, non dispari come abbiamo visto i commissari dell'Alitalia, e dopo i liquidatori, cioè, probabilmente scatteranno degli ammortizzatori sociali nell'immediato, cioè credo la cassa integrazione nell'immediato, ma il problema è se potranno essere ricollocati. Certamente se la compagnia non dovesse riprendere a volare perché non ci fossero dei capitali, delle risorse per farla funzionare. Si può, così, provando a immaginare cosa è successo ad altre compagnie in Europa quando si sono fermate all'improvviso. A me viene in mente, anche se è un caso più grande, il caso della Air Berlin, che nel 2017, l'anno in cui l'Italia è stata commissariata, si è fermata pochi mesi dopo, e le attività, perché lì c'erano anche dei dislot aeroportuali, ma anche degli aerei, anche una parte del personale, sono stati rilevati, in quel caso Lufthansa la maggior parte e EasyJet. Non è da escludere che anche qui si possa aprire. Comunque di solito queste diciamo soluzioni, se si possono chiamare così, possono riguardare forse solo una parte dell'attività e dell'occupazione. Allora vedremo domani poi che cosa emergerà dall'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Grazie intanto a Gianni Dragoni, Traffico. Focus Economia. Enrico Giovannini, ex ministro welfare, ex presidente dell'Istat, portavoce di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, buonasera. Buonasera. Io non so come prendere questo tema, glielo dico con un po' di sconforto, nel senso che ogni anno quando l'Istat pubblica i dati demografici, e la demografia è da sempre materia economica, siamo a commentare anche in questo caso l'ennesimo record negativo, cioè il ricambio naturale più basso degli ultimi 102 anni, solo 435.000 nascite nel 2019, mai così poche, a fronte di 647.000 decessi. E quindi ecco perché è il ricambio naturale più basso. Età media al parto 32 anni, numero medio di figli per donna 1,29, dove però spicca non solo le province autonome di Bolzano e Trento, dove la variazione è invece in positivo, cioè più nati che deceduti, più 5 a Bolzano e più 3,6 per mille a Trento, bene anche Lombardia più 3,4 per mille, Emilia Romagna più 2,8, Toscana neutra, cioè quasi invariata, e poi invece le flessioni più forti si hanno al sud. La Sardegna viaggia a un ritmo di variazione della popolazione pari a meno 5,3 abitanti per ogni mille, Molise e Basilicata meno 10 abitanti per mille. Allora c'è una differenza anche regionale, però sai perché il mio sconforto, Presidente? Perché io qua continuo a sentir parlare, Presidente Mattarella giustamente ha detto è un problema che riguarda la natalità, l'esistenza del paese, ma di politiche attive per la famiglia, non di politiche una tantum, di bonus una tantum, non vedo neanche l'ombra. Sì, ha ragione naturalmente, perché è un tema molto difficile, perché è un tema che richiederebbe, tanto per cambiare, una programmazione a lungo termine di dove vogliamo essere come paese tra 20 o 30 anni, perché poi i tempi della demografia sono questi. Se fossimo un'impresa noi diremmo bene, tra 20-30 anni vorremmo avere una popolazione tot, e a quel punto ci domanderemmo come raggiungere quel livello, magari stimolando le nascite della popolazione che già è presente in Italia, oppure importando lavoratori dai paesi industrializzati, oppure importando lavoratori dai paesi in via di sviluppo. Insomma, porremmo il problema in termini strutturali e strategici. Invece non facciamo nulla di tutto questo. E si vede purtroppo l'effetto, perché abbiamo tanti giovani, soprattutto di qualità, che vanno via. Non riusciamo ad attirare giovani di qualità da altri paesi, anche perché paghiamo degli stipendi molto bassi, perché abbiamo una produttività bassa, perché abbiamo imprese relativamente piccole, e dunque ogni anno ci troviamo a commentare questi dati, oltre che naturalmente, come lei diceva, mancano politiche di medio termine sul che stimolino la natalità di chi oggi è già in Italia. Noi vediamo che però c'è un problema di reddito pro capite, ma anche un problema giovanile di welfare per le famiglie, voglio dire di servizi, nel senso che è vero che nel centro nord il reddito pro capite è più alto, però se noi guardiamo la differenza, per esempio, tra alcune regioni, penso alla Toscana meno 0,5 per mille e il Trentino, non si spiega solo con il reddito pro capite, si spiega con tutto un insieme di servizi per le famiglie, per le mamme, oltre che per i papà che hanno i figli, no? Certamente sì, sappiamo che la presenza di asili nido e in generale di strutture che aiutano le famiglie a gestire soprattutto i bambini piccoli eccetera è un elemento forte, perché scarica altrimenti la loro assenza tutto sulle famiglie, quindi soprattutto se le donne giustamente vogliono lavorare è chiaro che a quel punto non c'è spazio. Il governo ha inserito in legge di bilancio il costo zero, diciamo così, l'azzeramento dei costi per gli asili nido. Credo una scelta corretta, ma sappiamo che c'è un divario di strutture di asili nido tra il nord e il sud drammatico e non è qualcosa che si fa appunto con un bonus. La stessa cosa vale naturalmente per il sostegno alla crescita dei figli e pensiamo qui all'assenza di borse di studio, comunque limitate borse di studio per i giovani meritevoli via via che si continua a crescere. Insomma, i problemi sono tanti, le ricette sono tutto sommato note perché l'OCSE, la Commissione europea identifica già quali sono le migliori pratiche e noi invece continuiamo a utilizzare i soldi magari per mandare tante persone in pensione in modo precoce anche se non fanno lavori usuranti. Da questo punto di vista, l'ultima nota, Gianni, mi sembra che anche l'apporto diciamo degli extracomunitari residenti in Italia stia calando, però cioè noi sapevamo che insomma il questo è normale perché in tutti i paesi di immigrazione le donne, le famiglie che arrivano da paesi con tassi di natalità più alti si adattano rapidamente alle abitudini del paese di arrivo e quindi non è una sorpresa. Lei pensi che per esempio in Africa, dove sappiamo la popolazione cresce e crescerà in modo drammatico nel futuro, la politica che riduce maggiormente il tasso di natalità è quello dell'istruzione per le bambine, per le ragazze, cioè tenere le bambine e le ragazze a scuola 5 anni in più abbatte drasticamente il tasso di natalità, non solo perché le rende più consapevoli e quindi più capaci di scegliere, ma perché offrono opportunità lavorative che altrimenti non avrebbero. Senti, in una battuta, cosa risponde a chi dice ma perché c'è questo bisogno di crescita demografica se abbiamo tassi di disoccupazione così alti? È un commento che vedo molto in rete in questo momento. Perché abbiamo bisogno anche di consumatori, non soltanto di produttori. E se andiamo a guardare il reddito pro capite, la crescita del reddito pro capite, l'Italia non ha fatto molto bene, ma non molto lontano da altri paesi sviluppati negli ultimi 10-15 anni. Gli Stati Uniti fanno molto meglio dei paesi europei, ma anche perché hanno una dinamica demografica in crescita, quindi più persone vogliono dire anche più PIL e dunque più prospettive, ma non solo, più persone giovani. Vogliono dire più innovazione, certo, più propensione al cambiamento. Quindi non solo abbiamo bassa natalità, ma questo porta anche un invecchiamento della popolazione e quindi una struttura dei consumi meno adatta all'innovazione e dunque meno spinta anche all'innovazione. Grazie anche a Enrico Giovannini, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.